il cristianesimo è GESU. Un giorno Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. E, bastata questa sola affermazione di Cristo perché milioni di persone abbiano guardato a Lui, considerandolo un punto fermo e immutabile per quello che riguarda la loro fede. Che poi in realtà esistano diverse confessioni di fede cristiana, dimostra maggiormente che la fonte del cristianesimo è Gesù Cristo, o meglio che il cristianesimo è Gesù Cristo. Sì, il cristianesimo non è una religione, ma Gesù Cristo e senza di Lui ogni espressione cristiana non ha valore. Egli è la via, cioè senza di Lui nessuno può andare in cielo. Egli è la verità, cioè colui che si deve seguire. Egli è la vita perché chi non ha Cristo Gesù non ha la vita eterna. Il cristianesimo è Gesù perché Egli è l'unico sacerdote o mediatore fra Dio e gli uomini, Egli è il capo della Chiesa, Egli è la luce che illumina le tenebre dell'uomo, Egli è il pane e l'acqua per chiunque crede in Lui, Egli è il buon pastore perché conduce chi si confida in Lui, Egli è la vera vite, perché senza di Lui non si produce alcun frutto. Il cristiano allora non è colui che viene dichiarato tale dagli uomini, chi nasce da genitori cristiani, chi porta questo nome, chi ubbidisce più o meno alla volontà di Dio, chi appartiene ad una confessione cristiana, chi segue i principi del cristianesimo, chi è in pace con la propria coscienza, chi non ha nulla contro l'insegnamento di Cristo, o meglio ancora, chi è attratto dal suo messaggio, ma colui che ha scelto Cristo come l'unica via per andare in cielo, come l'unica verità da seguire, perché rendendosi conto di essere per nascita un peccatore perduto, ha trovato solo in Cristo la vita. Se ti confessi cristiano, non confondere la forma con la sostanza, lì l'ubbidienza alla legge di Dio con il credere in Cristo, non porre fede in ciò che ritieni essere giusto, ma la tua fede sia riposta nella persona che ispira ciò che devi esprimere. Non vantarti di avere la religione giusta, ma accertati se hai creduto, se segui, se ami la persona di Gesù. Non amare la volontà di Cristo, ma la sua persona, poi di conseguenza come espressione del tuo amore per Lui, farai la sua volontà. Amare Cristo significa abbandonare la tua tradizione se questa non è conforme alla sua volontà, a costo di perdere anche gli affetti più cari. Egli è la verità, e la verità non cambia. Ciò che cambia non è più verità. Si può vivere da cristiani e non esserlo, perché uno è quello che è, non quello che fa. Cristiano è colui che ha scelto Gesù come la persona da credere, da seguire e per cui vivere. Il cristianesimo è Gesù, e quello che Egli ha detto e fatto lo trovi scritto nei Vangeli, nella Bibbia. Se la via per andare in cielo per te è Gesù, allora adeguerai il tuo cammino religioso. Secondo quello che è scritto nella parola di Dio, eterna e immutabile, se credi che la verità è una persona e non un insieme di regole, allora le sue parole saranno l'unica autorità per la tua condotta cristiana. Se hai realizzato che solo in Gesù hai la vita eterna, allora ti rallegrerai perché eri perduto. Ed ora, secondo la sua promessa, sei certo di essere salvato per l'eternità. La volontà di Dio non è vivere da cristiani, essere delle persone per bene, essere dei suoi ammiratori o condividere ciò che egli afferma, ma è credere in Cristo, e questo comporta ravvederti, cioè renderti conto che senza Cristo sei irrimediabilmente perduto per l'eternità. Pentirti, cioè devi avere la determinata volontà di abbandonare ciò che Gesù afferma essere sbagliato. Convertirti, cioè devi adeguare il tuo modo di vivere secondo gli insegnamenti di Cristo. Testimoniare, cioè dire agli altri che Gesù Cristo è il tuo unico Signore e il tuo personale Salvatore. Condividere la tua fede con chi ha fatto la medesima esperienza spirituale. Scegli oggi la persona di Cristo e diventerai figlio di Dio. Non indugiare al suo invito. Credi che il suo sacrificio è stato fatto una volta per sempre per te, per riconciliarti con Dio. Che Egli è morto e risorto per darti subito la vita eterna, la sua pace, la sua gioia, la sua presenza, la sua amicizia. Cioè tutto quello che la tua anima desidera. Allora vivrai da cristiano perché Cristo vive in te. Quando hai Gesù nulla ti manca, senza di Lui nulla ti giova. Milioni di persone possono testimoniarlo, perché la loro vita è stata cambiata, trasformata, benedetta. Unisciti a loro e godrai benedizioni eterne. Se desideri approfondire questo argomento, puoi farlo scrivendo a voce amica.